dream to flow. Feel the soul, feeling grown, feel the fingers round to the sound of the motion tour. Here we come, here we go, free to free our life. Run away from a freeze hunter. Ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Motor Fingers, Black Mirror. Come si chiamava questa canzone? Questo era l'epilogo della dualità per eccellenza ed era Bastard and Saints. Quali ora gli obiettivi della band per un futuro prossimo? Guarda, come dicevamo prima, noi siamo una band molto live, quindi gli obiettivi più prossimi sono quelli di portare live questo disco in tutta Italia, possibilmente anche in Europa se ce ne sarà l'occasione. Siamo al quinto brano, cosa fate sentire? My Soul. Thank you. just about everything. I have to find a way to go, but I don't know. I have to find a gas myself to change what's in my mind again. I can't pretend a state of mind. I'll be dead, circa dead, for one more time. Will destroy my mind, and I'll be one step behind. All my life and time, my soul just keeps on telling. I'll come and go so far. My mind just spins around me. I'm Il tempo passa e noi siamo alla fine di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni: scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radioRCS.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. O grazie Motorfingers per la partecipazione. A questo punto la parola a voi per i contatti web ed informazioni sul vostro disco, oltre ai live in programmazione. Allora, per i contatti web c'è un nostro sito in costruzione che a breve sarà online, che è www.motorfingers.com. Siamo su myspace/motorfingers, siamo su Facebook e il nostro disco si può trovare nei negozi tramite la distribuzione fisica di Andromeda Dischi, oppure su iTunes, e su CD Baby, su Amazon probabilmente. E oppure si può contattare tramite Atomic Staff e Logic in Logic, si può reperire tramite questi due siti. Le prossime date in previsione sono il 15 giugno, saremo a Brescia all'Happy Days, il 23 o il 30 giugno, non è ancora confermato, saremo a Lucca dallo Zio Rock di Radio Star nel locale che sta aprendo. E il 7 luglio saremo al Moto Chianina, che è un motoraduno che si svolge dalle nostre parti a Soliera, in provincia di Modena, insieme a una band molto conosciuta alle nostre parti che fa un tributo ai Kiss molto appariscente, che sono gli Electric Circus. Detto questo, direi di aver detto tutti i contatti, giusto? Certamente. Brano di chiusura? Out of Control. Jean-Luc e Motorfinger vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti Dubby Dub, formazione ferrarese, che presenterà il disco Sorry No Dub. Ciao!